Storie italiane. Il dono dei magi. C'era una volta, in una piccola città in Inghilterra, due innamorati, James e Della, che erano follemente innamorati l'uno dell'altra. Quando il college finì, James ottenne un lavoro come dattilografo in una compagnia di giornali. Con uno stipendio di 50 sterline al mese, James era felicissimo e decise di chiedere a Della di sposarlo. Della, sono innamorato di te dal giorno in cui ti ho vista per la prima volta e voglio amarti fino alla fine dei tempi. Io voglio invecchiare con te, Della. Vuoi sposarmi? Oh, James, voglio invecchiare anch'io con te. Sì, io ti sposerò. E così James e Della si sposarono con una piccola celebrazione. James affittò un appartamento mobiliato a 8 sterline a settimana. E la coppia era felice e contenta. Sembrava che il loro amore diventasse sempre più forte. Le cose stavano andando bene, fino al giorno in cui la recessione arrivò e lo stipendio di James venne ridotto a 40 sterline. Amore mio, ce la faremo. Non preoccuparti. Certo, amore mio. Finché sarai al mio fianco, nulla potrà preoccuparmi. E così il marito e la moglie andarono avanti risparmiando su tutto. Ce la facevano a malapena a far quadrare i conti. Presto arrivò la vigilia di Natale. Le strade di Londra erano coperte di neve. E i negozi erano decorati con luci e le case con alberi di Natale. Della controllò nella borsa per vedere quanto era riuscita a risparmiare. £1.85, £86, £87 È tutto? Ah, e domani è Natale, eh? Cosa faccio? Non è abbastanza. Ora, c'erano due cose che la coppia possedeva di cui entrambi erano molto orgogliosi. Uno era l'orologio d'oro di James, che gli era stato tramandato da suo padre e che era stato tramandato a suo padre da suo nonno. L'altro erano i capelli di Della. I bei capelli di Della si allungavano fino a sotto le ginocchia ed erano quasi un indumento per lei. Ah, devi fare quello che devi fare. Si alzò nervosamente e rapidamente mentre una lacrima scendeva dai suoi occhi. Della si asciugò le lacrime dal viso e, indossando il suo vecchio cappello marrone, uscì fuori dalla porta, scese le scale e andò in strada. Poco dopo si fermò vicino a un negozio. Ci siamo? Mi scusi? Comprerebbe i miei capelli? Perché non ti togli il cappello e mi fai dare un'occhiata? Della si tolse il cappello e sciolse i capelli castani. Sollevando la massa con una mano esperta, la signora fece un cenno di approvazione. £20? Va bene. Due ore dopo, Della era in giro per le strade di Londra a caccia del regalo perfetto per James. Alla fine lo trovò. Sicuramente è stato fatto per James e nessun altro. Era una catena in platino semplice e delicata nel design, capace di far risaltare correttamente il suo valore solo con la sostanza e non con ornamenti inutili, come dovrebbero fare tutte le cose buone. Era assolutamente degna dell'orologio. Senza pensarci più, pagò 21 sterline per questa e si affrettò a casa con le restanti 87 pence. Alle 7 il caffè era pronto e la padella sulla stufa era calda e pronta per cuocere le braciole. Della aveva sistemato i capelli in modo da sembrare una scolaretta. Almeno questo è quello che pensava. Se James non mi uccide prima di darmi una seconda occhiata, dirà che sembro una ragazza del coro. Ma cosa potevo fare? Oh, cosa avrei potuto fare con 87 pence? All'improvviso sentì i suoi passi sulla scala e divenne bianca per un momento. Per favore, Dio, fagli pensare che io sia ancora carina. Per favore! La porta si aprì e James entrò. Sembrava magro e molto serio. Quando guardò Della, rimase immobile. I suoi occhi erano fissi su di lei e c'era un'espressione in loro che lei non riusciva a leggere e questo la terrorizzava. Immediatamente si allontanò dal tavolo e andò ad abbracciarlo. James, tesoro, non guardarmi in quel modo. Mi sono tagliati i capelli e li ho venduti perché non avrei potuto sopportare di non farti un regalo per Natale. Cresceranno di nuovo, lo sai. Crescono così in fretta. Ma James non rispose. Di buon Natale, James, e siamo felici. Non sai che bello, che bellissimo regalo che ho preso per te. Ti sei tagliata i capelli? Sì, tagliati e venduti. Non ti piaccio anche così? Sono comunque io, senza i capelli. James la guardò con un'espressione seria. Non fraintendermi, Della. Non credo che ci sia nulla di male in un taglio di capelli, una pettinatura o uno shampoo che possa farmi cambiare opinione su di te, ma se scarterai quel pacchetto capirai perché sono rimasto sbalordito nel vederti. Della strappò la carta e quando aprì la scatola emise un grido di gioia. Wow! Ma la sua gioia ebbe una vita breve perché il dono era una serie di pettini per capelli fronte e retro che Della aveva ammirato a lungo in una finestra di Broadway. Bellissimi pettini, guscio di tartaruga puro, con bordi rifiniti come gioielli. Erano costosi e nel suo cuore aveva bramato e bramato per averli, senza la minima speranza di possederli davvero. E adesso erano suoi. Ma le trecce che avrebbero dovuto adornare gli ambiti ornamenti erano sparite. Li abbracciò forte e alzò gli occhi pieni di lacrime e fece un sorriso. I miei capelli crescono così in fretta, James. E poi Della balzò in piedi come un piccolo gatto e pianse. Oh, oh, James, non hai ancora visto il tuo bellissimo regalo? Glielo porse orgogliosamente sul palmo aperto. Non è Dandy, James. Ho cercato in tutta la città per trovarlo. Dovrei guardare l'ora 100 volte al giorno ora. Dammi il tuo orologio. Voglio vedere come ci sta. Invece di obbedire, James cadde sul divano e si mise le mani dietro la nuca e sorrise. Della, mettiamo via i nostri regali di Natale per un po'. Aspettiamo. Sono troppo belli per essere usati subito. Che vuoi dire? Ah, ho venduto l'orologio per avere i soldi per comprare i tuoi pettini. Ci fu un improvviso silenzio nella stanza, finché James parlò di nuovo. Ed ora mangiamo le braciole. Della corse verso di lui e lo abbracciò forte. James l'abbracciò. Oh, ti amo così tanto, James. Io ti amo di più. I magi, come sapete, erano saggi, meravigliosamente saggi, che portarono i doni per Gesù Bambino. Hanno inventato l'arte di fare regali a Natale. Essendo saggi, i loro doni erano senza dubbio saggi, ma i due amanti in un appartamento a Londra, che molto più saggiamente sacrificarono l'uno per l'altro i loro più grandi tesori, sono i più saggi di tutti. Sono i magi.